Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti e benvenuti, ben ritrovati nel vostro Salvadanaio. Oggi è lunedì e ritorniamo alle guide pratiche delle Sole 24 Ore, senza togliere nulla a tutte le altre uscite fino a questo momento e che hanno raccolto un grande consenso da parte vostra. Questa di oggi è la numero 15, quindi il Sole sta facendo questo lavorone praticamente ormai da luglio, da fine giugno, non mi ricordo bene, insomma da quasi 4 mesi. Credo che il tema dell'uscita di oggi sia tra i più importanti, dato il momento che sta vivendo l'economia generale, soprattutto il nostro paese, dove nei giorni scorsi l'Istat ha certificato un tasso di disoccupazione giovanile che ha raggiunto nel secondo trimestre di quest'anno il 27,9%, toccando il livello massimo dal secondo trimestre del 1999, quindi da 11 anni a questa parte. Una percentuale che riguarda i giovani fra i 15 e i 24 anni, che segna il picco del 40,3% fra le donne del mezzogiorno. E proprio al tema della ricerca del posto di lavoro che oggi il Sole dedica la sua guida, la bussola per conquistare il posto giusto, la mappa dei mestieri che resistono alla crisi, giovani, donne e disoccupati, indirizzi utili e consigli pratici. Insomma, un tema che la guida cerca di affrontare a 360 gradi, cerca di mettere proprio nero su bianco tutte le indicazioni utili, pratiche, concrete che possono essere necessarie a chi in questo momento sta trovandosi in una condizione difficile o perché magari si tratta di un giovane laureato che si è appena messo nel mercato del lavoro e non sa bene come orientarsi, ma ci sono anche situazioni molto più difficili di chi, per esempio, si è trovato improvvisamente scaraventato nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, perché la propria azienda ha chiuso, perché non c'è più appunto lavoro in questo momento, come sapete, in tanti ambiti professionali, e magari perché si vive in una zona un po' più difficile rispetto ad un'altra. Insomma, tante sfaccettature che stamattina cercheremo di affrontare con i nostri ospiti. Intanto la coordinatrice di questo dossier, di questo rapporto, la collega del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri. Francesca, ciao, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. E poi saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina due esperti che peraltro io non ho ricordato, Francesca, poi magari mi aiuti tu a farlo, che come al solito la guida ha anche un canale online. Sì, ha una finestra subito online. Infatti da questa mattina alle 9 fino alle 18 i lettori del Sole 24 Ore potranno inviare i quesiti collegandosi al link www.ilsole24ore.com/trovare lavoro. E poi ecco, attraverso questa modalità si possono inviare quesiti. Sì, infatti noi abbiamo individuato 4 temi importanti, che sono appunto come fare il curriculum, come prepararsi al colloquio di lavoro. Il secondo tema riguarda le pari opportunità sul luogo di lavoro. Il terzo è mettersi in proprio. E il quarto è, a questa sezione possono inviare quesiti coloro che intendono lavorare all'estero. E che quindi magari guardano, insomma, l'opportunità di andare, certo, a lavorare fuori per magari tornare anche in Italia, che ne so, oppure rimanere. Insomma, anche lì non è che sempre si possa partire, si possa trovare facilmente delle opportunità. No, assolutamente no. Prima di partire bisogna, fare un piano d'azione ben dettagliato, capire bene qual è la meta e quali sono le reali opportunità di trovare lavoro. Tra l'altro già noi parzialmente avevamo anticipato questi argomenti lunedì scorso con l'altra vostra guida, quella ai master universitari, perché anche lì, insomma, abbiamo il presupposto forse fondamentale a volte per collocarsi adeguatamente nel mercato del lavoro. I due esperti a nostra disposizione questa mattina, oltre che a disposizione del quotidiano per rispondere alle domande di chi intenderà appunto rivolgerle attraverso il canale online, sono Tommaso Aiello, esperto di orientamento universitario e professionale. Dottor Aiello, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato. E buongiorno anche a Luca Lorigiola, responsabile stamattina, lo definiamo un po' così proprio per la parte mettersi in proprio, anche in questo caso esperto del Sole 24 Ore su queste tematiche. Lorigiola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ovviamente a noi interessa soprattutto che ci aiutiate ad animare la nostra trasmissione. Avete come sempre l'opportunità di farlo chiamandoci all'800 24 00 24, oppure potete scriverci al 349 238 6666. La borsa rapidamente, prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi: borsa moderatamente positiva in Europa stamattina, abbiamo un più 0,10% a Parigi, più 0,10% a Francoforte, più 0,02% Londra, poco mossa da stamattina. Milano è arrivato iniziato a guadagnare oltre mezzo punto percentuale, adesso frena leggermente, più 0,12 sul FTSE MIB, rialzi più forti Geox, più 2,59, Buzzi più 2, Italcementi più 1,69, il gruppo è reduce dal roadshow del Marocco e sembra essersi ben presentato tra gli investitori internazionali e quindi titoli in rialzo. Stamattina Azimut è più 1,63, in pregiro più 1,25%, sembra che vada bene tutto il settore delle costruzioni. Mediolanum invece in netto calo, perde 1,5%, Fondiaria meno 1,37, Mediobanca meno 0,9, quindi di nuovo giù il comparto bancario ed assicurativo. Euro su dollaro a 1,3448, questa è la situazione di borsa stamattina. Andiamo però al tema di oggi. Oggi a Salvadanaio si affronta il mercato del lavoro e le difficoltà di entrarci. I dati record diffusi in questi giorni non sono certo incoraggianti. La disoccupazione in Italia è all'8,5% e se si restringe il campo ai giovani tra i 15 e i 24 anni, si arriva a toccare quasi il 28%. Eppure sono molte le figure professionali cosiddette introvabili, quelle di cui le imprese sono sempre alla ricerca e per le quali non esiste concorrenza. Tecnici, camerieri e commessi, cuochi, ma anche informatici, infermieri e contabili. Come incentivare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro? La chiave si trova nel giusto rapporto tra università e imprese, nel mondo dell'educazione e della formazione, ma anche nella capacità di orientarsi e di cercare nel modo giusto. Essere informati, avere progettualità e trovare i contatti migliori sono requisiti fondamentali per chi al giorno d'oggi si mette alla ricerca di un impiego. La fase della selezione è un passaggio cruciale. Mai come oggi l'invio di un curriculum può essere decisivo. L'importante è essere sempre se stessi, senza esagerare. Scegliere un formato chiaro e uno stile semplice, senza dilungarsi. E quando si arriva al colloquio, mostrarsi sicuri, conoscere bene l'azienda e, naturalmente, mai raccontare bugie. Per chi non punta all'assunzione, ma cerca una strada alternativa, c'è poi la scelta, coraggiosa e stimolante, di mettersi in proprio. Il progetto di avviare un'impresa non si può certo improvvisare, e per partire con il piede giusto bisogna studiare con attenzione e imparare a destreggiarsi nella giungla dei finanziamenti pubblici e privati. Infine, non mancano le occasioni per allargare i propri orizzonti e proiettare il proprio futuro oltre confine, cercando gli sbocchi giusti per il lavoro dei propri sogni fuori dall'Italia. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Insomma, le linee guida di comportamento generali ci sono, poi naturalmente, Francesca, bisogna vedere dove si abita, quanto spirito anche di iniziativa individuale si ha. Mi colpiva molto il quadro che hai tracciato per aprire la guida di questa mattina sull'andamento nel mercato del lavoro del nostro paese, perché si fa sempre questo gran parlare delle professionalità richieste di cui il mercato del lavoro non dispone. Mi ha colpito molto appunto questa suddivisione molto estrema. Ovvio, poi ci sarà delle sfaccettature fra la necessità di installatori di infissi al centro, di informatici al nord e parrucchieri ed estetisti al sud. Però ecco, una schematizzazione estrema che però effettivamente un po' dipinge la nostra realtà. Sì, certo, è un po' un paradosso, perché da un lato abbiamo tassi di disoccupazione record e dall'altro ci sono imprese che non riescono a trovare le persone con le competenze giuste. È un po' la difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, e come appunto veniva ricordato prima nel servizio di apertura, è tutta una questione anche di formazione, di rapporti tra scuole e mondo del lavoro, tra università e mondo del lavoro. C'è questo mismatch che è difficile da azzerare. Certo. Allora, andiamo subito ai nostri esperti. Tommaso Aiello, peraltro, dottor Aiello, noi mi sono fatto una chiacchierata con loro prima di cominciare la trasmissione. Il dottor Aiello mi chiedeva qual è il target al quale ci rivolgiamo stamattina. Questa è davvero una bella domanda, perché noi ovviamente auspichiamo che ci siano magari giovani che ci ascoltano, ma temo, dottor Aiello, che ci saranno in questo contesto, in questa fase particolare, e ce lo hanno denunciato più volte anche over quarantenni, che non sanno proprio da che parte cominciare per rimettere sulle redini, sulla strada giusta la propria vita professionale, e perché magari per tutta la vita si è fatto il dipendente, ad un certo punto ti trovi che le aziende ti chiudono la porta, e se vuoi magari hai anche un'idea brillante, intraprendere un cammino da solo, è molto complicata questa faccenda. E poi ci sono anche tanti papà che ci stanno già scrivendo e segnalando i casi di casa propria, ovviamente anche una famiglia ha delle difficoltà enormi a dare un orientamento giusto al figlio. Ma il tema grosso, come diceva anche Francesca Barbieri, è il modo corretto di presentarsi. Come si fa a capire se il nostro modo di presentarci ad un'azienda è in linea con le modalità di ricerca dell'azienda stessa? Dottor Aiello. Io comincerei dall'aver chiaro qual è il proprio obiettivo professionale, non dare la sensazione che si cerca un lavoro per un altro. Questo è un problema che può capitare nel momento in cui, come diceva lei, una persona che ha 40 anni o anche più si ritrova ad alloggio l'indomani a dover cercare un lavoro o a doversi ricollocare. Quindi partire dall'obiettivo professionale e poi capire che le proprie chiavi di ricerca del mondo del lavoro non possono essere quelle di un neolaureato. Quindi diventa meno importante il semplice invio del curriculum, ma è assolutamente centrale essere proattivi, lavorare con i social network per esempio, o, ne do un altro spunto, rivolgersi a chi si occupa di outplacement. Un dato che credo sia importante: in Italia vengono resi pubblici appena il 30% delle posizioni lavorative. Perché? È perché è un problema di strategia, laddove nel nord Europa arriviamo al 70-80%, in alcuni paesi, tra cui l'Italia e la Francia, si preferisce andare più su canali informali, dal passaparola oppure... Alla raccomandazione, no, banalizziamo. No, non è un problema di raccomandazione, ma vale anche per i neolaureati. A tutt'oggi, in un mondo in cui tutti parlano di employer branding, il canale migliore è la conoscenza del professore che possa raccomandare, ma raccomandare in senso buono, i propri talenti. Insomma, io lo vorrei anche precisare di nuovo: è chiaro che il tema di cui parliamo questa mattina è estremamente delicato, si presenta, come dire, talmente ampio che ovviamente sarebbe necessario affrontarne tutte le mille sfaccettature, però noi stamattina, appunto, ripeto, cercheremo soprattutto di andare sul pratico e sul concreto, anche se volete attraverso i vostri casi. Una battuta prima di andare già alla prima pausa con Luca Lorigiola, che è il nostro, come ho detto prima, esperto, diciamo, del tema mettersi in proprio. Pagina 31 della guida pratica di questa mattina disegna proprio la linea di azione per chi volesse mettersi in attività per conto proprio. Ma, dottor Lorigiola, molto spesso le maggiori perplessità in questo ambito, su chi non ha mai percorso questa strada, sono di natura economica. Adesso c'è più facilità dal punto di vista burocratico di aprire un'attività, l'impresa in un giorno, abbiamo parlato anche tante volte a Salva Danaio, e però forse il tema economico viene un po' spesso tenuto non nella dovuta considerazione. Beh, certo, l'uso del business plan è praticamente limitato a pochissimi casi. E il business plan è logico che può servire sia per chiedere un finanziamento in banca, ma dovrebbe servire soprattutto per l'imprenditore, per rendersi conto se vale la pena di avviare anche l'attività imprenditoriale. È logico che l'aspetto dell'iscrizione in un giorno è solo una semplificazione burocratica. Avere l'impresa iscritta in 5 giorni può essere utilissimo, però non bisogna dimenticare tutti i costi immediati, evidenti, e anche quelli non immediati che un imprenditore si deve far carico solo per il fatto di aprire l'attività. Certo. Allora, guardi, entreremo nel merito di questi punti subito dopo la nostra prima pausa. 800 24 00 24, numero verde per le vostre considerazioni. C'è già pronta quella di Gianluca da Napoli, con il quale apriremo Salva Danaio tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che oggi, come ogni lunedì, prende spunto dalla guida pratica delle Sole 24 Ore, che oggi affronta un tema molto importante: trovare lavoro. Cosa bisogna fare se è ora, una volta usciti dall'università, di mettersi appunto a disposizione del mercato del lavoro, oppure se da questo si è usciti in maniera dirompente per colpa della crisi, adesso è necessario anche riqualificarsi per rientrare. Cosa si fa? Dove si comincia? Allora, stamattina, oltre alla nostra Francesca Barbieri, che ha coordinato questo dossier per il Sole, anche due esperti, Luca Lorigiola e Tommaso Aiello, per aiutarvi appunto anche nelle vostre perplessità su questo tema. Io sentirei subito Eugenio da Brescia, che ho fatto a cui concedo questo sorpasso rispetto a due ascoltatori che avevo preannunciato prima, in particolar modo un ascoltatore di Napoli, perché credo sia presidente di una Confartigianato. Eugenio, buongiorno. Sì, è vero, buongiorno a voi, buongiorno. E allora, qual è la sua percezione? Tema importantissimo. È verissimo quello che dicevate prima sulla problematica del reperimento di figure professionali, soprattutto a Brescia. Guardi, falegnami, elettricisti, panificatori non se ne trovano, quando invece abbiamo un tasso di disoccupazione che è altissimo, ragazzi che non sono disposti ad imparare un lavoro. Ma dall'altra parte c'è anche un altro problema. reintrodurre la figura dell'apprendistato è importantissimo. Purtroppo qui gli sindacati si sono messi di traverso, mentre invece è uno dei pochissimi modi, penso oggi come oggi, l'unico per far ritornare i giovani nelle botteghe artigiane, naturalmente incentivando e permettere agli artigiani che già sono soffocati dalle tasse, dalla burocrazia e dalla crisi, di permettersi di avere per un anno e mezzo, due, magari anche con l'aiuto di qualche figura sindacale come tutor, non le escludiamo, però i ragazzi devono tornare nell'azienda artigiana, nella bottega, ad imparare un mestiere. Naturalmente bisogna mettere in condizione gli artigiani di poterlo fare, sia economiche ma anche sindacali. Eugenio, la ringrazio per la sua testimonianza, che in qualche maniera ci porta a concludere che per fare qualche passo avanti rispetto a questa situazione di stallo forse bisognerebbe compierne qualcuno indietro. Tommaso Aiello, volevo sentire lei su questo, perché io mi chiedo anche dal suo ambito di orientamento professionale, insomma, se si scontra con questa realtà, arriveranno, immagino, da lei molti ragazzi, ma anche di età probabilmente più avanzata, con dei curriculum di tutto rispetto, ai quali magari lei suggerisce anche di, come dire, indirizzare la propria attenzione su ambiti professionali che non possono essere considerati estremamente qualificanti, e si sente rispondere che cosa? Ma in realtà mi viene da rispondere che vengono da noi diverse associazioni di categoria che hanno lo stesso problema che è stato sollevato adesso, e sempre più spesso ci chiedono, per questo tipo di figure, di provare a iniziare l'orientamento già nella scuola media, perché un operaio specializzato, quindi un diplomato, lo si potrà trovare soltanto se un inserimento nella scuola secondaria è un inserimento mirato già al mondo del lavoro, e in questo noi siamo parecchio avanti. È abbastanza facile trovare dei laureati attraverso le banche dati, attraverso gli uffici placement, diventa più complicato riuscire a parlare di lavoro ai diplomati. Ah, perché che cosa succede a Aiello? Beh, è diverso, perché un diplomato specializzato lo si deve, come dire, indirizzare, lo si deve orientare già nel momento in cui sceglie il percorso per la scuola superiore e quindi la scuola media, mentre ormai l'orientamento delle professioni per quanto riguarda le lauree è qualcosa che già è in stato abbastanza, certo, avanzato. Allora, sentirei adesso, ridò così la parola a Francesca Barbieri, Gianluca da Napoli, perché qui dobbiamo spulciare la guida e le indicazioni pratiche che questa ci offre stamattina. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Senta, siccome ascoltavo, la domanda che volevo farvi, cioè, a me piacerebbe iniziare un'attività, cioè mettermi in proprio. Su che settore, Gianluca, che cosa le interessa? Non ci ha ancora pensato alle idee chiare? No, le idee chiare. A me piacerebbe il settore alimentare, cioè tipo ristorazione, però veloce, tipo spizzico, tipo questi. Abbiamo capito. Comunque, sì, una cosa, insomma, magari proprio per i passaggi di lavoro, insomma, le cose di passaggio. Ok, perfetto. Però volevo sapere se c'era un aiuto da parte dello Stato oppure c'erano dei fondi. Siccome le parlo chiaramente, io faccio il magazziniere da anni, quindi non c'è la possibilità, con gli stipendi che pagano adesso, non c'è la possibilità di conservare quantitativi. Ho dei figli, sono sposato, quindi non, certo, si riesce a conservare molto. Quindi volevo sapere, c'è la possibilità di avere o dei prestiti agevolati oppure dei fondi perduti oppure... Qualcosa per partire, insomma, che non abbia bisogno di un eccesso, di un carico eccessivo anche di garanzie, perché lei dice, insomma, io comincio da zero e quindi vorrei, in ogni caso, il settore sul quale punto è anche un settore che potenzialmente potrebbe avere un discreto successo. Non è che si tratta di vendere, non lo so, come si dice in tanti casi del genere, i congelatori agli eschimesi. Francesca, intanto magari da questo punto di vista il sole dà qualche indicazione, poi vado a Lorigiola. Guarda, una prima indicazione può essere quella di consultare il sito di Invitalia, e qui ci sono tutta una serie di finanziamenti proprio a favore dei microimprenditori, a volte a fondo perduto, per cui, insomma, come dire, è possibile trovare un primo budget iniziale per avviare l'attività. Poi si può anche, non so, fare, come dire, navigare sul sito della regione. Anche qui di solito le regioni hanno delle sezioni specializzate sui finanziamenti. E una strada possibile può essere appunto anche quella di puntare sul franchising, parlava di ristorazione, quindi in questo caso però è necessario avere all'inizio un gruzzoletto, una piccola disponibilità economica. Però poi ci sono i vantaggi legati al poter utilizzare un marchio che è noto e quindi è già conosciuto dal pubblico. Lori Giola, vengo da lei. Allora, il nostro ascoltatore di Napoli ha individuato il settore nel quale gli piacerebbe operare con un'attività in proprio. Che cosa deve fare dopo di questo? Beh, allora, il settore alimentare, o meglio, il vostro ascoltatore ho l'impressione che voglia aprire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ancora soggetta al possesso di determinati requisiti professionali e da una chiamiamola autorizzazione che deve essere rilasciata dal comune. Mm-hmm. C'è poi tutto l'ambito sanitario, quindi controlli della ASL, perché perfetto, tutto ciò che attiene alla catena alimentare ha dei controlli molto più severi rispetto ad altri settori, rispetto certo, che ne so, per esempio all'abbigliamento, ovviamente. Sì. Diciamo che è fondamentale, e perché sennò preclude proprio l'avvio dell'attività, è l'avere dei requisiti professionali, che in questo momento sono dati o dalla frequenza di un corso generalmente organizzato e riconosciuto dalle regioni, o da un'esperienza professionale nel settore, generalmente 2 anni negli ultimi 5, o ancora da un titolo di studio che è legato ad aver fatto scuole ad indirizzo commerciale, oppure dove si studia biologia o chimica o quant'altra. E questo è fondamentale, perché sennò proprio il comune non prende nemmeno in considerazione la possibilità di aprire un'attività. Quindi anche se fosse un brand, come diceva prima Francesca, molto noto, lo spizzico della situazione, adesso faccio uno tanto per renderlo ancora più noto, il McDonald's della situazione, appunto, se per esempio il nostro ascoltatore individuasse che nell'ambito territoriale in cui abita di questo punto nuovo ci fosse bisogno, perché scoperto, avrebbe bisogno di fare tutti questi accertamenti preventivi, lo rigiona? Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione proprio per chiarire una cosa sul franchising. Il franchising è un contratto dove ovviamente un'impresa fornisce all'affiliato, diciamo, un marchio, il know-how, magari l'arredo e quant'altro, però non può mai fornire i requisiti necessari. E questo spesso vedo tra gli utenti, tra le persone che vogliono avviare un'impresa, chiedono informazioni, un po' questa poca chiarezza o confusione. Faccio un altro esempio che non è il caso dell'ascoltatore: l'agenzia immobiliare. Esistono tantissime reti di franchising nel campo delle agenzie immobiliari. Tu puoi sottoscrivere con qualunque di queste reti il contratto di affiliazione, però di fatto se non hai i requisiti richiesti per fare il mediatore immobiliare non potrai mai aprire l'attività. Certo, ci deve essere sempre un broker al quale appunto fa capo tutta l'attività, poi magari sì c'è una rete di collaboratori, però diciamo che il titolare dell'agenzia mediamente ha dei requisiti un po' più alti, mi passi il termine, certo, ecco. Certo, deve sostenere proprio un esame presso le camere di commercio. Certo, no, stavo ripensando ancora al caso del nostro ascoltatore di Napoli. Allora, visto che ha bisogno di qualcuno che magari gli metta nero su bianco, dottor Lori Giola, tutti i requisiti necessari per poter così immaginare di aprire la sua attività, se lui va per esempio in regione, secondo lei trova degli sportelli a cui qualcuno gli può dare delle risposte? Beh, io credo che più che la regione sia meglio orientarsi nelle reti più locali, quindi può essere la Camera di Commercio. Ormai in quasi tutte le Camere di Commercio sono sportello nuova impresa. Certe volte gli stessi comuni hanno magari all'interno dell'Informa Giovani, che dopo ovviamente danno informazioni anche non solo ai giovani, uno sportello di questo tipo. Certo. Le associazioni di categoria ancora ovviamente possono dare delle indicazioni in tal senso. Infatti, no, tanto per non scoraggiare anche magari il nostro ascoltatore al quale avevamo descritto forse uno scenario un po' complicato, ma magari non è poi così nell'atto pratico difficile, insomma, da percorrere. 800 24 00 24, il numero verde ancora per le vostre riflessioni, domande. Sentiamo Edoardo da Roma, poi andiamo a sentire anche suggerimenti per chi è in viaggio. Edoardo. Sì, buongiorno. Sì. Edoardo, chiamo da Roma. Senta, io sono laureato e mi sono specializzato con 2 master universitari. ho fatto parte di quelle migliaia di persone uscite dal perimetro all'Italia, dal passaggio dall'Italia a CAI, uh-huh. e quindi devo reinserirmi in un contesto lavorativo. Certo. Spulciando un po' tra gli annunci. Lei dice ovviamente il carpentiere non lo prendo neanche in considerazione, ma ci mancherebbe. Tra gli annunci, ecco, ho visto che la ricerca e la capability è molto medio-bassa. Mm. Allora volevo chiedere, ma probabilmente posizioni di un certo tipo, non voglio dire apicali, però di una certa conoscenza, di un certo know-how, è possibile che vengano gestite in modo informale? Ah, ecco, certo. Questa parola, queste cose qua, perché ecco, è molto difficile rientrare in una posizione di un certo tipo o almeno all'altezza minima. Mm-hmm. Delle competenze che uno ha. Edoardo, la ringrazio molto per la sua considerazione, alla quale faccio rispondere subito dopo i suggerimenti perché in viaggio a Tommaso Aiello. Un minutino di pazienza. Allora, Tommaso Aiello, ha sentito la riflessione del nostro ascoltatore precedente. Ovviamente figure professionali in circolazione che sono degne ovviamente del massimo rispetto e che giustamente si sono iperqualificate. Oltre all'università, ci raccontava l'ascoltatore, ha fatto anche due master, ha già un percorso professionale disegnato nel suo passato molto chiaro. Adesso si trova in questa posizione di qualifica in sostanza intermedia che non sa bene come poter spendere in realtà, non sa neanche forse come farsi conoscere, chiedeva insomma quali possono essere i canali che possono rimettere lui sul mercato del lavoro. Aiello. Ecco, mi sembra che sia un intervento particolarmente mirato, sia perché quel tipo di profili è molto difficile trovarlo in degli annunci normali, sia per appunto la domanda che faceva su la possibilità di trovare lavoro con dei canali informali. I social network in questo senso sono estremamente utili. E non parliamo del Facebook, della situazione, chiariamolo anche molto nettamente, Aiello, non so che cosa ne pensi, però c'è per esempio il LinkedIn, no, che funziona. Allora, intanto c'è sicuramente LinkedIn, però avere, come si può definire, una web identity qualificata e qualificante può essere sicuramente utile, anche su Facebook, le devo dire, perché oggi chi cerca informazioni su una persona o su un'azienda, la prima cosa che fa è metterlo sul motore di ricerca. E quindi mi spunta anche il profilo su Facebook. No, è che magari nell'immaginario collettivo quel social network lì ha un altro tipo di natura, di obiettivo, però ecco, magari molti di noi, lo dico anch'io, forse in via pregiudiziale, non lo prendono in considerazione proprio per il canale professionale. No, ma infatti su Facebook magari mi aspetto una presenza più informale, però comunque in linea con, appunto, con un professionista che mi aspetto No, io ho una mia amica che fa l'agente immobiliare che ci piazza tranquillamente anche i suoi annunci di vendita, per cui effettivamente adesso che ci penso funziona. Quindi detto questo, che cosa suggeriamo al nostro ascoltatore? Che allora, non mi ricordo, LinkedIn forse può essere utile intanto per avere una presenza coerente con il lavoro che si sta cercando e poi soprattutto per creare una rete di persone analoghe, che hanno una qualificazione analoga alla propria, e poi sempre attraverso strumenti come questo provare a entrare in contatto direttamente con chi nelle aziende si occupa di selezione, chiedere di poter inviare un curriculum e proporsi, magari allegando sia il curriculum sia una lettera di presentazione. Sentirei Ubaldo da Cagliari. Ubaldo. Pronto, ecco, io vi dico, cioè, una mia esperienza che può essere anche da stimolo. Io 10 anni fa ho perso il lavoro, o meglio, l'azienda era collegata a Finmeccanica, facevo grandi aziende, restringe, diciamo, il personale. Io prendo un incentivo alla fuoriuscita volontaria e investo questa liquidazione nell'arte, faccio una formazione molto molto, diciamo, accurata e dettagliata, sì. E dopo in pratica ho visto che ho rimpianto di non aver fatto prima questo passo, perché è cambiato completamente la mia vita, sia in termini di guadagno che in termini di soddisfazione del lavoro, e che va parallelamente alla mia vita. Cioè, Ubaldo, le voglio fare una domanda, però lei mi deve rispondere in maniera molto, molto schietta, naturalmente. Lei ritiene che se in questo particolare momento, data la crisi che ci ha travolto negli ultimi 4 anni, facesse la medesima scelta, secondo lei le andrebbe nella stessa maniera? La stessa maniera, perché sto continuando a lavorare bene, ho solo migliorato la mia formazione e soprattutto sono io che mi creo lo stipendio, che la cosa mi stimola moltissimo e non devo dipendere da altri che mi devono, diciamo, dare lo stipendio. Certo. Ho superato anche un momento, diciamo, di visione della vita, che io sono capace di costruirmi il mio stipendio. E certo, cioè, qualche non volta ho nessuna difficoltà di andare in giro per l'Italia a dimostrare la mia professionalità e a mettermi in gioco, diciamo, in un libero mercato dove ho una strenua concorrenza. Insomma, molto coraggioso Ubaldo, 10 anni fa ha fatto questa scelta, gli è andata bene, sta continuando ad andargli bene. Però Francesca Barbieri, per non per tutti è così, molti di noi hanno naturalmente anche dei limiti mentali che sono difficili da superare. Allora andiamo un po' al disagio, così viene definito anche proprio a pagina 27 del Sole 24 Ore, degli over 40. La formazione agevole e rientro per le persone appunto che sono uscite a questa età dal mercato del lavoro, c'è tutta una serie anche di indicazioni regionali che possono essere seguite, qualcuno deve riqualificarsi dal punto di vista professionale, bisogna ritornare a volte sui banchi di scuola. Eh sì, certo, anche in questo caso conta molto la motivazione, perché come dire, la molla che spinge a mettersi in proprio e oltre ad avere ovviamente un'idea vincente, a riuscire a ritrovare una propria strada, anche per chi non è così coraggioso per, come dire, tentare l'avventura di creare un'impresa, comunque trovarsi a 40-50 anni espulsi dal mercato del lavoro non è certamente facile rimettersi tra i banchi di scuola. Però appunto è fondamentale come dire, trovare gli stimoli per farlo, e negli ultimi anni, anche grazie alla disponibilità di risorse statali, sono aumentati i corsi di riqualificazione, di formazione, per trovare nuovi sbocchi, nuove opportunità. Ovviamente anche qui bisogna saper scegliere, farsi aiutare sia dalle strutture pubbliche come centri per l'impiego, sia dalle agenzie per il lavoro private, però bisogna sempre, come dire, partire e fare un bilancio delle proprie competenze per capire a che punto si è della propria vita professionale e per trovare nuove strade. E insomma, se si è fatto il meccanico fino all'altro giorno, adesso proprio mettersi a fare il pizzaiolo non è esatto, ma magari ci può essere qualcosa di un po' più vicino alle proprie attitudini, certo, alla propria esperienza. E però magari qualche volta le alternative sul territorio sono solo quelle e basta, per cui insomma i campi gli aspetti da tenere in considerazione sono davvero tanti. Sentirei Riccardo dalla provincia di Torino per poi concludere con Lorigiola e Aiello. Riccardo. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie mille della possibilità. Grazie a voi. Volevo Riccardo. Volevo solo commentare una cosa che mi dà sempre tanto fastidio, che sento spesso, ossia che i ragazzi di oggi non vogliono più fare certi lavori, falegname. Beh, siamo partiti proprio da questo, Riccardo. Infatti, e invece non è assolutamente non vero. È così. Io mi sono trovato in passato a cercare lavoro e tanti ragazzi che conosco cercano lavoro, ma i lavori in questi settori che vengono offerti sono sempre magari contratti fittizi a chiamate tramite cooperative, pagati magari in regola per 2 ore, ma poi costretti a lavorare in nero per 10 ore, senza pause, a chiamata, che sia sabato, domenica o quello che sia. E allora è più facile chiamare un immigrato che magari, decurtando ancora di più una parte dello stipendio, vive al piano di sopra con 15 persone della fabbrica, testimonianze dirette, e quindi un ragazzo magari con 20 anni dove si vede uno stipendio di 400 euro al mese, se va bene, senza contributi, deve lavorare 6 giorni alla settimana, 20 ore al giorno, magari non è disposto a accettarlo, mentre invece un qualsiasi tipo di contratto con un minimo di garanzia, quelle minime diciamo. Riccardo, guardi, devo salutarla, ma è stato chiarissimo. Credo che tra l'altro abbia anche toccato un nervo piuttosto scoperto del nostro mondo del lavoro. Aiello, voglio concludere con lei, così sentendo anche, se vuole, un commento rispetto a quello che abbiamo ascoltato da un ascoltatore della provincia di Torino, e magari così, siccome in realtà i consigli che potremmo dare sono migliaia e ne avremo dati appena 0,1% questa mattina, magari uno concreto prima di salutarci. Beh, io credo che la rete in tutte le sue forme oggi offra tante opportunità, soprattutto a chi ha voglia di farsi avanti. Studiare le aziende che interessano, dare l'impressione di essere la persona adatta per le figure che si stanno cercando, credo che possa essere la strada migliore. Un'ultima cosa con Francesca Barbieri, le domande che stanno arrivando da parte dei lettori del Sole 24 Ore, del sito. Stanno arrivando tante domande di persone che vogliono andare all'estero, a lavorare all'estero, sono soprattutto giovani neolaureati, anche qua si tratta di, insomma, di ricordare bene che prima di partire bisogna fare un'attenta analisi del paese estero, non è che all'estero la situazione è più rosea rispetto. Anzi, infatti, quindi anche qualche, come dire, sogno qualche volta vale la pena un attimino accantonarlo, rimandarlo. Grazie Francesca Barbieri, Luca Lorigiola e Tommaso Aiello per essere stati con noi, per tutto quello che non abbiamo detto, ed è sicuramente tanto. C'è la guida in edicola questa mattina col Sole 24 Ore, appunto la bussola per conquistare il posto giusto. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.